X24, la storia. We should defend our island, whatever the cost may be. Dovremo difendere la nostra isola a denti stretti, a qualsiasi costo. Dovremo combattere spiaggia per spiaggia, nei campi, nelle strade. We shall never surrender. Non dovremo arrenderci mai. Quello che avete appena sentito è forse il discorso più celebre di Winston Churchill. Il discorso con il quale il primo ministro inglese ha incitato il popolo a resistere alla ferocia dei bombardamenti nazisti, a combattere con determinazione per la libertà. Comincia da qui, da questo discorso, la seconda parte del nostro racconto sulla figura di Winston Churchill, il mastino inglese della Seconda Guerra Mondiale, il protagonista di Yalta nel dopoguerra, il politico che intuì per primo i pericoli del nuovo assetto mondiale e della Guerra Fredda. Ma tutto questo nel 1940 è ancora lontano. Agli inglesi, sotto il fuoco delle bombe tedesche, Churchill non può che promettere lacrime, sudore e sangue, ma anche che non si arrenderà mai fino alla certezza della vittoria. Proprio mentre Churchill viene nominato primo ministro, la Germania sta rapidamente conquistando la Francia. La forza di spedizione inglese è in ritirata, ma Churchill, ai suoi soldati, chiede ugualmente una vittoria ad ogni costo. 26 maggio 1940. Churchill ordina di evacuare Dunkerque, a cominciare dai soldati che stanno bene. Quelli feriti dovranno attendere. Più di 300.000 uomini vengono messi in salvo. Non dobbiamo dare al successo di questa operazione il valore di una vittoria. Le guerre non si vincono evacuando. È il 4 giugno del 1940 quando Churchill pronuncia le parole che avete appena sentito in un discorso radiofonico. 16 giugno 1940, Churchill è informato dell'imminente capitolazione della Francia e il 18 giugno così comunica via radio agli inglesi. Quella che il generale Weygand ha definito la battaglia di Francia è conclusa. Sta per cominciare la battaglia d'Inghilterra. È da questa battaglia che dipende la sopravvivenza della civiltà cristiana. Hitler sa che dovrà attaccarci su quest'isola e vuole vincere la guerra. Se riusciremo a resistergli, allora il mondo potrà muoversi verso un futuro di pace e giustizia. Cerchiamo quindi di compiere tutti il nostro dovere, fino in fondo, sapendo che se l'impero britannico e il Commonwealth dureranno per almeno altri 1000 anni, gli uomini un giorno diranno: fu il loro momento più alto. L'invasione dell'Inghilterra diventa una minaccia concreta. Churchill deve prendere una decisione difficile. Deve evitare a tutti i costi che la flotta francese venga bloccata dalle truppe di Hitler ad Oran. Ma gli ammiragli francesi si rifiutano di sottomettersi al comando inglese. Churchill ordina che la loro flotta venga distrutta. Così il commento della figlia, Lady Mary Soames. Fu una decisione incredibile, ma credo che ottenne subito l'effetto sperato. Il mondo intero comprese che il momento era grave, che i rischi erano altissimi. Mio padre aveva sempre ammirato i francesi e non avrebbe mai fatto nulla che potesse urtarli, ma non poteva permettere che quelle navi cadessero nelle mani dei tedeschi. In soli 10 minuti di bombardamento vengono uccisi circa 1300 marinai ed ufficiali della marina francese. Una decisione durissima, come lo stesso Churchill scriverà nel suo libro sulla Seconda Guerra Mondiale. Fu la decisione più terribile da prendere. Eppure, fu una scelta obbligata. La decisione di Churchill diviene la prova più evidente della sua determinazione in guerra. In un colpo solo, il primo ministro ha unito il governo e tutta la popolazione. Ha inoltre mandato un messaggio chiaro agli Stati Uniti. L'Inghilterra e il suo primo ministro lotteranno fino alla fine, con tutte le loro forze. Tutta l'Inghilterra ora è con lui. Winston Churchill ha finalmente ottenuto ciò per cui ha lottato fin da giovane. Ora, però, deve trasformare il suo potere in una vittoria. Il governo gli concede massima libertà di movimento. Il primo ministro si autonomina ministro della difesa. Churchill è inflessibile. Da se stesso e da chi gli sta intorno chiede sempre il massimo. A raccontarlo è la sua segretaria personale, Elizabeth Nell. Una volta mi venne vicino per controllare cosa stessi facendo. Improvvisamente mi rimproverò mettendosi a urlare. Io ero terrorizzata e ammisi di aver commesso un errore. Lui si scurì in volto, era furioso e mi cacciò. Immediatamente svegliarono qualcun altro nel cuore della notte e gli ordinarono di venire al più presto a finire quel lavoro. Clementine comincia a preoccuparsi degli accessi d'ira del marito. Decide allora di scrivergli una lettera per chiedergli di mitigare i suoi comportamenti. Mio caro, spero che mi perdonerai se oso parlarti così, ma è qualcosa che sento il dovere di dirti. Credo che i tuoi atteggiamenti così rudi, sarcastici e maleducati possano alienarti le simpatie dei tuoi colleghi. Devo confessarti di aver notato un peggioramento in te. Non sei più quella persona gentile e corretta che conoscevo. Per conservare il potere che hai nelle tue mani, devi saper combinare pazienza e calma. Non posso sopportare che chi serve il paese e te possa disprezzarti anziché rispettarti. Ti chiedo di perdonare la mia insolenza. La tua devota e attenta moglie, Clemmy. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Estate del 1940, nei cieli d'Inghilterra del Sud, in furia la battaglia. Durante i bombardamenti, Winston Churchill diventa la voce di quello che lui stesso chiama il popolo britannico dal cuore di leone. E aggiunge che attraverso i suoi discorsi sarà lui a dare al leone il suo ruggito. E la preparazione dei suoi discorsi è frutto di un lavoro estenuante e di precisione. A raccontarlo il nipote di Churchill ed Elizabeth Nell, segretaria personale di Churchill. Stando al suo segretario, John Colville, mio nonno impiegava un'ora per preparare un minuto di discorso. Quindi, per un discorso al Parlamento di 45-50 minuti, impiegava in media 45 o 50 ore di preparazione. Il tutto mentre infuriava la guerra contro Hitler. La gratitudine di ogni casa della nostra amata isola, del nostro impero, ma direi di tutto il mondo, va ai nostri uomini che affrontano di giorno in giorno, sprezzanti del pericolo. Ed io scrivevo e scrivevo, mentre lui camminava e girava senza sosta attorno al tavolo. Sensibilità e tutta la loro devozione. Non lo interrompevo mai, non chiedevo mai scusi, come ha detto, mi rendevo conto che era in un'altra dimensione. Nella storia delle guerre mai si è registrata una così grande ammirazione di tanti verso un gruppo così ristretto di persone. Sono i nostri piloti, sono loro a riempirci di orgoglio per le azioni temerarie che compiono ogni giorno. Non dobbiamo mai dimenticare che giorno dopo giorno, notte dopo notte, i nostri bombardieri... Capitava a volte che la sua voce salisse di un'ottava e che con tutto il suo disprezzo urlasse quell'essere spregevole. Si riferiva a Hitler. E non dobbiamo mai dimenticare che lì da soli si ergono incuranti delle loro stesse vite. Con i suoi discorsi, come quello che abbiamo sentito del 20 agosto del 40, Churchill galvanizza una nazione intera, idealizzandone il glorioso passato. Ma nonostante la vittoria nella battaglia d'Inghilterra, sul resto dell'isola i bombardamenti continuano. Così Churchill alla radio il 20 agosto del 40. Questi odiosi, crudeli ed indiscriminati bombardamenti sulla città di Londra fanno parte dell'inaccettabile piano di Hitler di invadere la nostra terra. Dal 1940 Churchill si appella agli Stati Uniti perché intervengano in guerra. Ma da Washington non ottiene nessuna risposta. 7 dicembre 1941. I giapponesi bombardano la base americana sul Pacifico, a Pearl Harbor. L'America è costretta ad intervenire. Finalmente la Gran Bretagna può contare sull'alleato atlantico. Quattro mesi prima dell'attacco a Pearl Harbor, nell'agosto 1941, Churchill e Roosevelt si incontrano al largo di Terranova. I due leader si intendono immediatamente. Eleanor Roosevelt ricorda: mio marito aveva già incontrato Churchill, ma non lo aveva conosciuto a fondo. Dopo quell'incontro, invece, capì che tra i nostri due paesi si era rotto il ghiaccio e che Churchill era il tipo d'uomo con cui avrebbe collaborato molto volentieri. Churchill e la sua famiglia diventano frequentatori abituali della Casa Bianca. Così il racconto di Patrick Kinna, assistente personale di Churchill. L'inserviente mi raggiunse e disse: il primo ministro desidera dettarle una lettera. Al momento è nel bagno. Vuole raggiungerlo? Mi recai da lui. Era nella vasca e quando mi vide disse: vuol prendere nota? Detterò subito. E così, tra uno spruzzo e l'altro, prese a dettarmi. A un certo punto uscì dalla vasca e udimmo bussare forte alla porta. Churchill disse: avanti! Odiava essere interrotto e infatti disse «avanti» in tono molto duro. Quando la porta si aprì, comparve la figura del presidente Roosevelt sulla sua sedia a rotelle. A quel punto a Churchill cadde l'asciugamano in cui si era avvolto e disse «come vede, mio caro presidente, non ho proprio nulla da nasconderle». Ma l'amicizia non può cancellare le divergenze politiche tra i due. Roosevelt è un liberale riformista, Churchill un conservatore istintivo. Inoltre Roosevelt si oppone fermamente alla strenua difesa di Churchill dell'impero britannico. Quando Churchill non si trova in America, si intrattiene volentieri con Roosevelt in lunghe conversazioni telefoniche. Così il racconto di Ruth Ive, addetta alla censura telefonica. Credo che il primo ministro amasse il botta e risposta, la polemica, un tono fortemente ironico della conversazione. Ricordo che finiva sempre le telefonate con il presidente dicendo KBO. Io, non sapendo cosa significasse, ma dovendo trascrivere ciò che si dicevano, ogni volta scrivevo KBO. Un giorno il colonnello per cui lavoravo mi fece chiamare e mi disse: non c'è bisogno che ogni volta scrivi KBO. Ma lo sai cosa significa? Risposi: no, non lo so. Lui allora mi spiegò: KBO significa King Bagger On, vai a prenderlo in quel posto. Giugno 1942. Churchill si reca nuovamente a Washington. La guerra volge al peggio. Singapore è caduta. Gli U-boat tedeschi affondano i convogli atlantici. E sul fronte orientale, le armate della Wehrmacht stanno conquistando vasti territori. Il 21 giugno, Tobruk, nell'Africa del Nord, cade per mano degli Afrika Korps di Rommel. Fu uno dei colpi più duri di tutta la guerra. A Singapore ci eravamo arresi di fronte a un numero inferiore di giapponesi. E ora, a Tobruk, soldati esperti rendevano le armi a un esercito probabilmente inferiore della metà del nostro. Non provai nemmeno a nascondere al presidente lo shock che provai nell'apprendere la notizia ferale. La sconfitta è una cosa, il disonore è un'altra. Quello fu di certo il punto peggiore della guerra. Molti temevano che Churchill sarebbe stato sfiduciato, Cosa sarebbe successo a quel punto? E lui che fine avrebbe fatto? Che futuro ci aspettava? Churchill è ferito, ha bisogno di una vittoria. Così parla il 10 novembre del 1942. Il generale Montgomery ha ottenuto una storica quanto gloriosa vittoria in quella che potremmo chiamare la battaglia d'Egitto. Gli elmetti dei nostri soldati rifulgono di onore e le loro gesta ci riempiono d'orgoglio. Non si tratta certo della fine della guerra e neanche dell'inizio della fine. Forse però è la fine dell'inizio. Novembre 1942. Il successo dell'ottava armata ad El Alamein permette a Winston Churchill di respirare. Seguiranno altre vittorie sul fronte nordafricano. Ho trascorso 2 giorni a Tripoli e ho visto con i miei occhi la gloriosa entrata in città dell'ottava armata. Tutto il Nord Africa è stato liberato. Circa 250.000 persone sono state fatte prigioniere. Nell'aria si respirava un senso di vittoria. ...1943, per gli alleati le sorti della guerra cominciano a raddrizzarsi. Churchill si comincia a preoccupare di trovare un ruolo per la Gran Bretagna nel futuro assetto mondiale. Teheran, novembre del 43, Churchill e Roosevelt incontrano il leader sovietico Stalin. A parlare è Hung Lungi, interprete di Churchill alla conferenza di Teheran del 43. Churchill giunse a Teheran completamente senza voce a causa di una laringite. Aveva un aspetto pessimo. Venni a sapere più tardi che, in parte, il suo cattivo umore era dovuto al fatto di non essere riuscito a trovare un accordo con Roosevelt su come trattare con Stalin. A Teheran emergono in tutta la loro chiarezza le sostanziali differenze tra Churchill e Roosevelt. Per Churchill è ormai evidente che Roosevelt considera Stalin il suo interlocutore privilegiato. Ho capito, forse per la prima volta a Teheran, quale piccola nazione sia la Gran Bretagna. Seduto lì, con l'orso russo da una parte e il bufalo americano dall'altra, io ero niente di più che il somarello inglese, che però era l'unico a sapere la via giusta per tornare a casa. Dopo Teheran, Churchill continua il viaggio verso l'Africa del Nord, ma la sua salute peggiora di giorno in giorno. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e al racconto della storia di Winston Churchill. Dopo la conferenza di Teheran nel 43, nel suo viaggio verso l'Africa del Nord, il primo ministro è costretto a fermarsi a Cartagine con il generale americano Eisenhower. Churchill ha una brutta polmonite ed è colpito da 2 infarti. La guerra e l'età gli presentano il conto. Ma ancora una volta Churchill mette in mostra la sua straordinaria capacità di recupero. 25 dicembre 1943. Con indosso il suo vestito preferito, Churchill va alla cena di Natale del generale Eisenhower. Un banchetto a base di tacchino ripieno, pudding e champagne. 3 settimane più tardi, il 18 gennaio 1944, il primo ministro è di nuovo dietro alla sua scrivania a Londra, completamente rimesso. 6 giugno 1944. Sotto il comando americano, le forze alleate sbarcano in Normandia. Churchill capisce che il mondo avrà un nuovo ordine. Qui è Richard Dimbleby che vi parla. Le truppe britanniche, americane e canadesi sbarcate sulle coste francesi sono già penetrate per molti chilometri all'interno. La prima fase dello sbarco in Europa occidentale è andata addirittura meglio delle aspettative. Come nel suo stile, Churchill partecipa in prima persona alla preparazione del D-Day. Tra lo sconcerto generale, dichiara addirittura di voler prendere parte anche lui allo sbarco. Per fermarlo, deve intervenire il re d'Inghilterra. Un primo ministro non può correre simili rischi. Ma Churchill riuscirà lo stesso ad avere la sua fetta di gloria. 6 giorni dopo il D-Day, sale a bordo della nave HMS Kelvin e parte alla volta della Normandia. È Peter Shaw, ufficiale della nave, a raccontarlo. Mi venne intimato di lasciare al più presto la mia cabina. Nient'altro. Rimasi assolutamente allibito di fronte a tale richiesta. Io ero un capitano, mica l'ultimo arrivato. Improvvisamente apparve Churchill. And lo behold, Churchill appeared on board. Verso la Normandia, nella Manica, c'era un flusso unico di navi in rotta verso le coste francesi. Avevamo issato una bandiera con su scritto Churchill a bordo. Fu un viaggio commovente. Dalle altre navi tutti ci salutavano e ci applaudivano. Churchill aveva avuto la classica idea alla Churchill. E anche lui era commosso ed emozionato. Ho attraversato la Manica senza incidenti. Montgomery, sorridente ed entusiasta, era lì sulla costa ad attendermi. Le sue truppe erano già penetrate per circa 10 chilometri all'interno. Pranzammo in una tenda da cui si potevano osservare le linee nemiche. Mentre Churchill è in visita in Normandia, i tedeschi lanciano un ultimo disperato attacco aereo all'Inghilterra sud-occidentale. Nel giro di 3 settimane muoiono oltre 3.000 persone. Churchill ordina ai suoi capi di Stato Maggiore di rispondere duramente agli attacchi tedeschi. Voglio che siate pronti a colpire i tedeschi in modo durissimo. Potrei anche chiedervi di utilizzare gas nervini. Potremmo avvelenare le città tedesche in modo che gli abitanti debbano ricorrere a costanti cure mediche per anni. E che nessuno si azzardi a sollevarmi questioni morali. Ma i militari rifiutano di mettere in pratica il piano di Churchill. Per loro il primo ministro avrà parole di disprezzo. Salmisti in uniforme, inutili disfattisti. L'aviazione inglese intensifica i bombardamenti sulla Germania. Negli ultimi 10 mesi di guerra in Europa, i raid aerei alleati uccidono più di 200.000 civili tedeschi. Se Churchill ritiene le azioni di guerra una legittima risposta ai bombardamenti sull'Inghilterra, il mondo intero, al contrario, resta inorridito per l'efferatezza delle operazioni. La vittoria degli alleati è ormai certa. E ora a preoccupare Churchill è soprattutto l'assetto mondiale, il futuro assetto mondiale. Tema che l'Europa dell'Est diventi un dominio sovietico. Nonostante il suo istintivo disprezzo verso il comunismo, Churchill spera comunque di instaurare un rapporto personale con Stalin che gli consenta di influenzarne le scelte future. Febbraio 1945. Alla conferenza di Yalta, Stalin è al culmine del potere. Nell'Europa dell'Est l'Armata Rossa sta guadagnando posizioni su posizioni. Il leader sovietico proclama: l'Unione Sovietica sta esportando democrazia e giustizia nel vecchio continente. Churchill non gli crede. Il primo ministro lascia Yalta con un triste presentimento. 8 maggio 1945. Winston Churchill apre le celebrazioni per la giornata della vittoria in Europa. Alla folla radunatasi urla: questa vittoria è la vostra vittoria! Ma la folla risponde: no, è la tua. In tutti i secoli della nostra lunghissima storia non abbiamo mai visto un giorno più grande di questo. Churchill manifesta i suoi timori in privato. L'impero sovietico è una minaccia per l'Europa. Così come non è stato ascoltato all'epoca di Hitler, prima della guerra, anche ora, ad anni di distanza, sente di non essere sufficientemente ascoltato. Così nel suo discorso l'8 maggio 1945. Mi piacerebbe potervi dire questa sera che tutte le nostre paure e i nostri problemi sono svaniti per sempre. Finirei così il mio mandato in perfetta serenità. E anche se sapessi che ne aveste abbastanza di me, toglierei il disturbo tranquillo, senza risentimenti. Purtroppo però non è così. Devo avvertirvi che la strada davanti a noi è ancora lunga ed irta di spine. 10 maggio 1945. Appena due giorni dopo, i laburisti chiedono e ottengono elezioni anticipate. Churchill ha 70 anni, è stanco, ma deve affrontare un'estenuante campagna elettorale. Non possiamo permetterci di affrontare questioni così importanti con un governo debole. Vinceremo anche questa battaglia. Molti elettori, però, dubitano che chi li ha guidati in tempo di guerra sia l'uomo giusto per governare anche in tempo di pace. L'Inghilterra vuole più benessere, ma anche il welfare state proposto dai laburisti. Mi sembra di capire che qualcuno tra voi ha paura delle mie parole. Beh, farebbe meglio ad ascoltarle. A quanto capisco, il signor Morrison... Ancora una volta, Churchill deve uscire di scena. In lui gli inglesi vedono il simbolo di un vecchio ordine, fatto di classi e privilegi. Alla sua prima tribuna elettorale, Churchill viene criticato duramente. Dalle sue parole traspira il peso del suo controverso passato militarista. Credetemi, nessun sistema socialista potrà mai essere stabilito senza uno Stato di polizia. In un modo o nell'altro ricadranno in una nuova forma di Gestapo. Una Gestapo probabilmente dal volto inizialmente umano. Mio padre utilizzò la parola Gestapo. Mia madre lo pregò di evitarla, ma lui non volle darle ascolto. Solo mesi dopo ammise che avrebbe dovuto ascoltare il suo consiglio, ma all'epoca non ne volle sapere. In un certo senso faticava a riadattarsi alla politica dei partiti. Aveva perso contatto con tutte le dinamiche interne del Parlamento. Questi i risultati delle elezioni fino alle 3 di oggi. Partito Conservatore, 180 seggi. Partito Laburista, 364. Per i laburisti è una vittoria schiacciante. Mi disse: prego, signor Kinnan, entri. E subito si abbandonò a mille ricordi. Poi si fece scuro in volto e disse: e così gli inglesi non mi vogliono più. E cominciò a piangere, ed io con lui. Non ho mai visto un uomo più affranto dal dolore. Era davvero distrutto. Era la voce di Patrick Kinna, assistente personale di Churchill. Dopo la guerra si ritira nuovamente a Chartwell, dove prova a lenire il suo dolore con lunghe passeggiate nel parco, dando da mangiare ai suoi amati cigni neri. È umorale, irritabile e non fa che riversare la sua frustrazione su coloro che lo amano di più. A raccontarlo è la sua guardia del corpo, Ivan Davis. Churchill aveva degli sbalzi d'umore terribili. Poteva stare per giorni interi senza rivolgere la parola a nessuno. Le segretarie stavano molto attente a non urtarlo. «È in una giornata no», dicevano. «Meglio lasciarlo stare». La cosa peggiore era quando in casa c'era suo figlio Randolph. Il ragazzo non riusciva a fare a meno di provocarlo. Ogni volta che litigavano, per almeno tre giorni, era intrattabile. A 75 anni le ambizioni politiche di Churchill sono tutt'altro che sopite. Fare il leader dell'opposizione lo annoia. Sul palcoscenico della politica mondiale, Churchill vuole un ruolo di primo piano. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Winston Churchill è ormai un uomo anziano, ma non ha perso la sua ambizione politica. Nel suo ritiro nella residenza di Chartwell, per sfuggire ai suoi momenti bui, Churchill si immerge nella scrittura delle sue memorie di guerra. La storia sarà benevola con me, per il semplice fatto che ho intenzione di scriverla. Le memorie di guerra di Churchill sono un bestseller. In breve tempo diventa miliardario e viene addirittura insignito del premio Nobel per la letteratura. Ma non mancano le critiche. Secondo i suoi detrattori, Churchill enfatizza troppo i suoi successi, tralasciando i suoi fallimenti. Un deputato laburista dice: «Churchill ha scritto un romanzo di cui il protagonista principale è lui stesso». Ce ne parla così la sua guardia del corpo, Ivan Davis. Era come se fosse su un palcoscenico. Churchill sapeva sempre cosa la gente voleva che facesse, e lo faceva. Si aspettavano che alzasse le due dita in segno di vittoria, e lui alzava le dita. Ogni volta che veniva ritratto, aveva sempre il sigaro in bocca. Per questo, dovunque andasse, portava sempre i suoi sigari con sé, e se ne metteva uno sempre tra le labbra. Sempre con quel suo cappello nero. Insomma, recitava se stesso sulla scena della vita pubblica. Dovremmo essere pronti a tutto, pur di allontanare da noi la minaccia socialista. Con il nostro contributo, il mondo sarà libero da ogni forma di socialismo. 1951. Churchill si candida alle elezioni politiche. Per lui è la 14ª volta. In privato confida: speriamo di prenderci la rivincita per il 1945. I laburisti lo dipingono come un guerrafondaio. Il loro slogan: se non vuoi la terza guerra mondiale, vota per un terzo governo laburista. Proprio la campagna laburista rafforza in Churchill la volontà di fare da paciere tra il mondo occidentale e quello del blocco sovietico. Mio padre non si fermava davanti a nulla. Era sempre convinto di vincere. Non pensò mai di venire sconfitto. Pensava di diventare primo ministro, non certo un deputato qualunque, ma mai e poi mai si sarebbe ritirato dalla lotta politica. Molto bene, signore e signori. C'è solo una cosa che posso dirvi ora. Tre urrà per Winston Churchill! Ottobre 1951. Churchill diviene per la seconda volta primo ministro. Un mese più tardi compie 77 anni. Nel 1940 a nominarlo primo ministro era stato il Parlamento. Ora a sceglierlo è il popolo. Finalmente Churchill può dedicarsi a cercare la pace per un mondo sempre sull'orlo del conflitto. Il suo secondo mandato a Downing Street comincia come quello di 11 anni prima. Churchill si autonomina ministro della difesa e forma un gabinetto costituito in gran parte da vecchi amici e colleghi. I nuovi membri, invece, vengono accolti con sospetto e diffidenza. Da Stettino a Trieste è calata una cortina di ferro che attraversa l'intero continente. Marzo 1946, in una conferenza a Fulton, nello stato americano del Missouri, Churchill conia l'espressione «guerra fredda». Di nuovo al potere è ora determinato a porre fine alla tensione del dopoguerra e per questo decide di organizzare un summit tra le due superpotenze, America e Unione Sovietica. 6 marzo 1953. Mentre, come sempre, sta leggendo i quotidiani a letto, Churchill viene informato che la sera prima è morto Stalin. Nuovi uomini sono saliti al potere a Mosca. È forse il segno di un nuovo vento che spira su questo tormentato mondo? Churchill scrive immediatamente al presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, fedele alleato in tempo di guerra. Eisenhower però è contrario ad incontrare i nuovi leader sovietici. Churchill resta isolato, tormentato dallo spettro di un nuovo conflitto nucleare. Churchill non sottovalutò mai il rischio di una guerra nucleare. Sapeva bene cosa poteva provocare una bomba ad idrogeno. L'aveva visto quando gli americani le avevano sganciate sul Giappone e aveva letto tutti i rapporti segreti. Sapeva che erano ordigni terrificanti. Era la voce di Anthony Brown, segretario privato del primo ministro inglese. Il secondo mandato di Churchill è sottoposto a dure critiche. La sua oratoria, però, è ancora quella di una volta. In un'intervista un deputato dirà: «Dietro quella montagna ormai indebolita si cela un vulcano sempre in attività». Ma anche gli stessi ministri del suo esecutivo lo ritengono un uomo ormai vecchio, aggrappato al suo potere. Ascoltiamolo il 16 maggio 1953. Stiamo cercando di ricostruire riserve preziose. In alcuni giorni Churchill sembra più esitante e confuso del solito. Abbiamo ristabilito la sovranità nazionale, voglio dire la solvibilità nazionale. Stiamo ora ricostruendo. Credo che sia un errore che chiunque possa compiere. Le cose vanno bene insieme. Churchill è ormai preso costantemente dalle questioni quotidiane di politica estera. Con l'età, la sua eccentricità assume caratteri grotteschi. Negli anni trascorre sempre più tempo con i suoi animali. A ricordarlo è la sua segretaria personale, Jane Williams. Churchill adorava i suoi animali. In particolare, amava il piccolo barboncino Rufus. Mi diceva sempre: «Rufy ha bisogno di un bel bagno». E così gli facevamo un bagno. Alla fine il piccolo Rufus passava più tempo in acqua che fuori. Giugno del 53, Churchill riceve a Downing Street Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio italiano, è di ottimo umore. Eisenhower ha finalmente accettato di incontrarlo alle Bermuda per discutere di questioni di sicurezza. Durante la cena però Churchill ha una crisi, il ricordo nelle parole della figlia. The company got up. I commensali stavano per alzarsi e lasciare la sala da pranzo. A quel punto mio padre ebbe un attacco cardiaco. Lì per lì non ce ne rendemmo neppure conto. Solo mio marito Christopher, che gli sedeva accanto, si accorse che papà aveva problemi a camminare. Aveva notato che anche il suo eloquio era molto strano. His speech was blurred. Churchill viene trasferito a Chartwell. Durante il viaggio, però, le sue condizioni peggiorano. Durante la convalescenza, Churchill pensa seriamente a dimettersi. Ormai ha 78 anni. Ma, come nel suo stile, prima di farlo, lancia a se stesso un'ultima sfida. Se riuscirà a parlare al prossimo congresso dei conservatori di lì a 4 mesi, manterrà il suo incarico di primo ministro. 10 ottobre 1953, conferenza di Margate. Churchill si alza per parlare. È il discorso che deciderà il suo futuro politico. Alcuni anni fa i socialisti propugnavano la nazionalizzazione come medicina per risolvere tutti i mali della nostra economia. Beh, se il mio fiuto non mi inganna, la sensazione è che si trattasse di un'idiozia. Churchill è di nuovo saldamente al comando della nazione. È pronto per il viaggio alle Bermuda, dove avverrà il sospirato incontro con Eisenhower. Ma il suo sogno di porre fine alla guerra fredda si infrange subito. Eisenhower rifiuta categoricamente di aprire qualunque negoziato con i sovietici. Churchill capisce di non avere più quel carisma personale con cui una volta riusciva ad influenzare gli eventi mondiali. È esausto. Improvvisamente sente tutto il peso della vecchiaia. I suoi avversari chiedono le sue dimissioni. Il suo erede naturale, Anthony Eden, una volta si lascia andare ad un'esclamazione. Mio Dio, ma quando si toglierà di mezzo? Svanita ogni speranza di organizzare un summit tra Stati Uniti e Unione Sovietica, Churchill capisce che è tempo di dimettersi. È il momento del sipario. Il 7 luglio del 64 partecipa alla sua ultima seduta in Parlamento, a 89 anni. 30 novembre 1964, Winston Churchill compie 90 anni. Una folla di ammiratori si raduna presso la sua casa di Londra. Churchill si affaccia per salutarli. Poi, il 23 gennaio, l'ultimo attacco di cuore. Winston Churchill muore il 24 gennaio 1965 alle 8 di mattina, esattamente 70 anni dopo la morte del padre. La sua vita, cominciata al culmine dell'impero britannico, si chiude nel momento del suo declino. Mi aveva detto, ricorda, al mio funerale voglio molte bande militari. Beh, ne ebbe 9. Una volta Winston Churchill aveva detto, sono pronto ad incontrare il mio creatore. Ora si tratta di capire se il creatore è pronto ad incontrare uno come me. E ora, buonanotte. Dormi bene e raccogli sufficienti forze per la mattina che presto arriverà. Porterà il sole che illuminerà con i suoi raggi i coraggiosi e gli onesti. Riscalderà coloro che soffrono per la causa, glorioso sulle tombe degli eroi. Ed ecco, è già l'alba.